9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 5 ottobre. Il tema di cui ci occuperemo oggi è netto ed è un interrogativo per centinaia di migliaia di italiani che hanno un'elevata professionalità, che formano il proprio capitale umano per dare spina dorsale ad attività economiche, per far fede pubblica su negozi giuridici, per asseverare la qualità di progetti di grandi opere, come di edifici, come di lavori pubblici. Stiamo parlando degli ordini professionali nel nostro paese, stiamo parlando quindi degli ingegneri, dei medici, degli avvocati, degli architetti, dei dottori commercialisti, e stiamo parlando di un punto molto delicato perché attiene a quali siano i poteri e i doveri, oltre ai poteri, degli ordini professionali ai quali sono iscritti centinaia di migliaia di professionisti italiani, quando la deontologia, la cui conservazione identifica il ruolo stesso storico dei ruoli degli ordini professionali, quando la deontologia pone chi è dirigente, rappresentante degli ordini di fronte a un interrogativo abbastanza pesante. Che cosa fare nei confronti di propri iscritti quando questi propri iscritti diventano oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria per collusione nei confronti delle grandi reti criminali, della mafia, della camorra, dell'andrangheta? Che cosa fare? È chiaro che io sono un garantista, lo sapete, tante volte ci siamo occupati della giustizia nel nostro paese, è chiaro che dal punto di vista della tutela dei diritti del cittadino indagato il nostro ordinamento prevede 3 gradi di giudizio, trattino, secondo me bisognerebbe guardare i paesi che in realtà semplificano verso i 2 gradi di giudizio, ma il nostro ordinamento ne prevede 3 e quindi naturalmente la presunzione di innocenza vale sempre fino a che la sentenza non è passata in giudicato. Ma questo riguarda l'impostazione generale della tutela dei diritti del cittadino indagato. Quando abbiamo a che fare con ordini professionali, cioè con ingegneri, architetti, medici, avvocati, eccetera, e in questo caso interviene un provvedimento nella fase delle indagini, un provvedimento cautelare per esempio che limita la libertà, in questo caso la legge istitutiva degli ordini professionali, gli ordini professionali sono stati introdotti nel nostro paese in date diverse a seconda dell'evoluzione ovviamente del nostro paese, ma tuttavia il principio che viene adottato nella legge istitutiva è quello che per esempio in presenza di una custodia cautelare si sospenda l'iscrizione all'albo. Ma poi cosa avviene quando la custodia cautelare magari decade e c'è il rinvio a giudizio? C'è il reintegro automatico, e poi quando c'è una sentenza di primo grado magari anche molto pesante, basata su atti, riscontri che rivelano un'attività collusiva che viene confermata dal giudice, che porta a erogare pene molto pesanti, che cosa deve fare l'ordine professionale? Deve limitarsi a guardare al rispetto del diritto del cittadino indagato fino al terzo grado di giudizio e non assumere quindi alcun provvedimento? Oppure l'ordine professionale esiste proprio e noi abbiamo diritto e dovere di chiedergli, in quanto garante della deontologia dei suoi iscritti, e invece non deve fare un'altra cosa? E non può e non deve aspettare il terzo grado, ma deve invece intervenire con tutta la durezza del caso, perché la specchiata moralità, da sempre identificata come una caratteristica in assenza della quale non ci si può iscrivere all'ordine, in quel caso viene meno, è macchiata, è contaminata, e quindi obbliga, non dico giustifica, dico obbliga persino ad assumere decisioni nei confronti degli iscritti quando arrivano sentenze di questo tipo, pur ribadendo che poi i diritti generali dell'indagato restano naturalmente intatti fino alla sentenza che passa in giudicato. Ecco, questo è l'interrogativo di cui ci occupiamo oggi, e ce ne occupiamo parlando e cominciando parlandone da una vicenda molto concreta. La linea generale seguita dagli ordini nel nostro paese infatti è stata quella di non assumere praticamente mai provvedimenti nei confronti delle centinaia di case, di casi di ingegneri, architetti, medici, avvocati colpiti da sentenze di questo tipo. Ricordiamo sempre che in definitiva esiste un famoso avvocato, esponente politico, sul cui nome per anni abbiamo dovuto fare trasmissioni di approfondimento e qualunque cosa ne pensiate. Io adesso non sto parlando del merito della sua vicenda giudiziaria, mi riferisco all'avvocato Previti, ciò malgrado, e lo dico da garantista, per un avvocato beccarsi condanne per corruzione in atti giudiziari dovrebbe equivalere più o meno a una specie di vergine condannata per stupro. Ecco, questo è il punto. Allora, se un ordine degli avvocati non assume provvedimenti neanche nei confronti degli avvocati che hanno sentenze per corruzione in atti giudiziari, voi capite bene, ma a cosa cavolo serve un ordine? E ripeto, io non mi sto qua occupando del fatto se la sentenza sia giusta o non sia giusta, la legge si applica, questo è il punto. E se gli ordini non applicano nei confronti dei loro iscritti un doppio metro di tutela deontologia, la mia opinione è che non servono a niente. Io in generale poi sono critico degli ordini, però partiamo da un caso concreto, perché l'eccezione c'è, noi vorremmo che fosse la regola, ma c'è. E quindi il caso di cui parliamo oggi è il caso di un ingegnere di Palermo che è diventato presidente dell'ordine a Palermo, e la sua storia ce la racconterà adesso. Ora io vi presento innanzitutto Alessandro Maria Calì, che appunto è stato presidente dell'ordine degli ingegneri di Palermo. Buongiorno Calì. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E insieme a lui abbiamo Nino Amadore, che è un giornalista del Sole 24 Ore, che 3 anni fa ha scritto un libro che ha posto esattamente questo tema al centro del dibattito. Il libro si intitola La zona grigia, professionisti al servizio della mafia. Grazie a Nino Amadore, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Salvatore Scuto, che è un avvocato del Foro di Milano e che si occupa, tra le altre cose, esattamente di queste questioni, cioè del foro interno, per così dire, degli ordini rispetto a casi di questo tipo, che ci aiuterà a dipanarci in questa sottile linea rossa che separa ciò che si deve all'indagato cittadino e ciò che invece si può chiedere agli ordini nei confronti dei loro iscritti quando vengono colpiti da provvedimenti di questo tipo. Buongiorno avvocato Scuto. Buongiorno a lei, direttore, e a tutti i radioascoltatori. Allora, Calì, cominciamo, io direi di cominciare subito dal punto, poi riapprofondiremo la sua storia, perché lei è un giovane figlio di un segretario comunale, vive a Casteldaccia, va a un liceo a Bagheria in anni, insomma, di anni di sangue, di mafia e così via, finisce a ingegneria seguendo un suo amico più bravo di lei, che comunque la fa diventare ingegnere giovane, poi va all'estero, meravigliosa esperienza, però torna e si appassiona all'attività del suo ordine, un ordine che dal 1964 era nelle mani, insomma, era comunque, faceva capo a uno stesso presidente, diventa presidente, fa la lista, a un certo punto dice qui bisogna cambiare e si imbatte in questo caso, nel caso di Michele Aiello, il RAS della sanità siciliana, iscritto all'ordine che lei presiedeva. E cosa decide di fare? Beh, decido quello che credo fosse il mio dovere, cioè aprire un procedimento disciplinare e attingere tutte le informazioni del caso per approfondire appunto i suoi comportamenti. Quindi assumo subito dopo la condanna in primo grado a Palermo, assumo tutti gli atti giudiziari e approfondendo, leggendo le carte, emerge che insomma ci sono profili veramente inaccettabili per un ordine professionale. Uno fra tutti è quello del pizzo, per esempio, cioè Confindustria, che non è un organo dello Stato ma un'associazione volontaria, ha sancito il principio che chi paga il pizzo non può essere iscritto, e i ragazzi a Dio Pizzo lo predicano ormai da anni, e quindi insomma sembrava o sembra essere ormai un dato acquisito quello di non pagare il pizzo. E quindi nel caso del, per esempio, di Michele Aiello viene fuori che il collega aveva pagato in tanti anni di attività questo pizzo alla cosca mafiosa di Bagheria, e quindi abbiamo aperto questo procedimento disciplinare e abbiamo detto perché ha pagato questo pizzo, e quindi abbiamo chiesto le spiegazioni del caso, spiegazioni che non sono apparse convincenti, perché lui si è difeso dicendo che questo è l'unico modo per svolgere un'attività tranquillamente alle nostre parti, e quindi come tale abbiamo ritenuto col consiglio di cancellarlo dall'ordine. Oh, nel frattempo, voi quando lei è riuscito, perché questa è fatta stretta, ma voi dovete leggere questo libro che sta uscendo, che si titola Disordine, esce tra poco, scritto da Alessandro Maria Calin, in cui ripercorre l'intera vicenda, perché detta così è facile, ma in realtà da quando si pone il problema il presidente Calin all'epoca a quando riesce ad avere questa decisione, passa un bel po' di riunioni sconvocate per mancanza di numero legale, obiezioni, eccetera eccetera, e nel frattempo, quando voi radiate Aiello, stiamo parlando di una persona che è arrivato al giudizio di appello, non è ancora in Cassazione, nel giudizio di primo grado si beccherà 10 anni di carcere, in appello diventano 16 se non ricordo male, a cui sequestrano un grande centro oncologico, 8 cliniche, società eccetera eccetera, 250 milioni, cioè stiamo parlando all'epoca uno dei più grandi sequestri di collusione per mafia. Ma quando voi assumete il provvedimento, riesce a farlo votare, l'indagato Aiello a che fase stava del procedimento? Aveva avuto la sentenza del primo grado? Sì, condannato in primo grado e a piede libero, perché ancora era pendente l'appello. Che poi confermerà aggravando la pena. E dopo che questa decisione viene assunta, quindi passato un bel po' di tempo, che cosa avviene a lei come presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo? Ma diciamo che dopo 20 giorni, non dopo tanto tempo, dopo 20 giorni da questa decisione mi viene recapitata una mozione di sfiducia firmata da 8 dei 15 consiglieri con l'accusa di avere manie di protagonismo, di volermi mettermi in mostra e cose di questa natura. Diciamo. E quindi lei alla fine? Alla fine mi dimetto perché in attesa di, siccome non è previsto negli ordini professionali l'istituto della fiducia, abbiamo chiesto un parere al Ministero per dire ma è possibile sfiduciare un Presidente anche senza motivazioni precise o valide, e allora dopo qualche mese il Ministero ha risposto dicendo sì, che si può sfiduciare, e allora a quel punto mi sono dimesso. Però il Consiglio Nazionale dell'Ordine nel maggio, mi corregga se sbaglio, di quest'anno, fungendo da giudizio di secondo grado, cioè da appello rispetto alla sanzione della radiazione dell'albo assunta sotto la sua presidenza, conferma in pieno la decisione che avevate assunto e quindi costituisce a questo punto a tutti gli effetti, a pieno titolo, un precedente di un grande ordine professionale italiano che nei confronti non di un indagato in attesa della sentenza che passa in giudicato, ma prima, di fronte all'evidenza degli atti giudiziari, il Consiglio dell'Ordine localmente si prende la responsabilità di dire guarda, noi esistiamo in quanto garanti della deontologia e ti diciamo che non, i tuoi diritti vai fino alla Cassazione, ma qui in quanto ingegneri, architetti, medici, noi ci dobbiamo dire fuori. La conferma a maggio di quest'anno è un titolo risarcitorio anche per Calin, ma no, perché lui nel frattempo non è più presidente, se non perché ha fatto fino in fondo, a mia opinione almeno, il suo dovere. Ma a Palermo i suoi colleghi ingegneri, dopo questa conferma, nei suoi confronti, che non so se faccia ancora attività nell'associazione, nell'ordine, mi scusi, oppure no, come si ha avuto reazione? No. Ma sì, insomma, io ho chiesto al presidente nazionale Giovanni Rolando di presentare appunto il mio libro al congresso nazionale di Torino che si è svolto nelle scorse settimane, e il presidente nazionale ha accolto con favore la mia richiesta, subordinandola però ad una autorizzazione dei colleghi di Palermo. Questa autorizzazione non è arrivata perché i colleghi di Palermo hanno chiesto la completa conoscenza del testo, leggo testualmente, dettata da ovvi motivi di tutela della figura istituzionale che rappresentiamo. Quindi diciamo che i colleghi di Palermo non hanno, come dire, accolto a braccia aperte. Quindi non hanno ancora del tutto dismesso l'idea che lei sia in realtà un ammalato di protagonismo più che un difensore a quel punto della deontologia dell'ordine. Ecco, storie un po' singolari, e di storie singolari di questo genere, ma concluse con altro segno, cioè non concluse con una coraggiosa assunzione, mio giudizio, di responsabilità e con un precedente di questo tipo, concluse sempre con decisione di segno contrario, cioè di aspettare a braccia conserte fino alla sentenza passata in giudicato, ripeto, in tutti gli altri ordini e con casi gravissimi, ci sono capi mandamento della mafia a Palermo, architetti da decenni che sono rimasti regolarmente caso di Liga e regolarmente iscritti all'ordine senza che accapitasse nulla, sono testimoniati appunto nel libro di 3 anni fa di Nino Amadore, che quello che ha fatto fare nel dibattito italiano un salto di qualità, infatti da allora Nino spesso viene chiamato ad approfondire sempre questo punto. Adelino Amadore, che conosceva il caso Calì, che ha sostenuto Calì, forse gli ha dato anche una mano e non solo emotiva nell'idea di fare del suo caso un libro su cui dibattere. Adelino Amadore, chiedo come testimone, a che punto siamo nell'assunzione di consapevolezza diversa? Perché io ho l'impressione che il caso di Calì e dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo sia in realtà ancora un'eccezione che non faccia testo, per così dire. Confindustria da alcuni anni, grazie a Ivano Baello, grazie a Antonello Montanti, partendo dalla Sicilia, ha fatto la svolta che ricordava Calì, una svolta difficile che poi si è estesa piano piano nelle territoriali del sud e che ha portato a protocolli di legalità. Però insomma, negli ordini non ci siamo ancora, questa è la mia impressione. Tu che monitori la situazione, che dici, Amadore? Purtroppo la situazione non è cambiata affatto negli ultimi anni, tranne in qualche caso, ma si tratta, diciamo, di casi molto, molto rari. Per esempio gli avvocati con, diciamo, poi se volete ne possiamo anche parlare, a Palermo nello stesso procedimento penale viene sospeso un avvocato, che è il procedimento penale a carico di Massimo Ciancimino, della mamma di Lapis e di Chiron. L'avvocato Chiron, che è scritto all'Ordine di Roma, non è stato, diciamo, sospeso, non ha avuto alcun provvedimento, e così via. Potrei continuare, perché poi ci sono i casi molto paradossali. Per esempio, il presidente della regione siciliana, Salvatore Cuffaro, che è stato condannato, e per la condanna che ha ricevuto è stato sospeso con provvedimento del presidente della Repubblica. Ricordate, no, tutto quel procedimento, il dibattito che si è aperto e così via. Non è stato sospeso dall'ordine professionale di appartenenza, che è quello dell'Ordine dei Medici di Agrigento. Quindi sembra paradossale che per la sua carica, diciamo, da presidente della regione il provvedimento è uno, da componente dell'ordine il procedimento è completamente un altro. Io ho parlato col presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento per verificare, giustamente, per ascoltare anche le sue ragioni. Mi spiegava che l'iter che loro seguono è quello, per carità, rispettabile del terzo grado di giudizio. Io ho molto, diciamo, da ridire su questo tipo di procedimento, perché credo, come tu giustamente sottolineavi e ricordavi prima, non siamo nel campo del formalismo giuridico, cioè nello specifico campo del formalismo giuridico, ma siamo in un campo ben diverso, dove il professionista deve dimostrare di avere una specchiata moralità, di essere diciamo fedele alle leggi, comunque di rispettare le regole civili. E credo che un legale che fa affari con Cosa Nostra, eppure essendo assolto diventa presidente di una camera penale, non credo che possa essere considerato uno che ha rispettato le leggi fino in fondo. Eppure succede. Oh, qui è un punto molto delicato, perché tra i nostri ascoltatori c'è chi mi dice: ah, i gradi di giudizio non sono tre, se uno c'è adesso. Ma guardate, sono d'accordo, sì, la Cassazione e sono giudici di legittimità, a parte il fatto che entra poi talvolta più spesso di quanto non si creda, con questo titolo anche nel merito del procedimento, e va bene. Dall'altra però iniziano ad arrivare alcuni messaggi che dicono: attenzione, questo Giannino giustizialista non ce lo aspettavamo, perché se sei garantista allora non puoi abbracciare il principio che se uno stato del procedimento l'indagato ha ricevuto una condanna ma non è definitiva, per questo non può più lavorare e viene sospeso o radiato dall'ordine. E questa è una materia delicata posta così. Questa è una materia delicata posta così, perché io capisco l'obiezione, che non mi convince, soprattutto per alcuni reati e soprattutto quando nel commettere questi reati la figura del professionista è in realtà non la vittima del pizzo, è coessenziale, consustanziale al fatto che questi reati vengano concepiti, vengano compiuti e vengano anche occultati all'interno dei negozi giuridici ed economici che fanno la vita economica di un paese. Perché senza commercialisti, senza avvocati, senza ingegneri, che sono parte integrante del meccanismo criminale, il meccanismo criminale non sta in piedi, per come funziona la vita economica complessa nel nostro paese, senza chi assevera con le loro professioni anni e fa fede pubblica con questo. Quindi qui siamo in una fase delicata e di questo dovremo riparare dopo la pubblicità con l'avvocato Salvatore Scuto, che unisce appunto dal punto di vista della professione che fa i principi generali della tutela dell'ordinamento garantiti all'indagato e dall'altro si occupa del foro interno, perché io non voglio sembrare uno che spacca a metà con il nodo gordiano con la spada. Ha un ascoltatore che mi fa presente che il paragone che ho fatto nel caso dell'avvocato Previti, che resta avvocato malgrado la condanna in corruzione in atti giudiziari, e dicendo che ho sbagliato a fare il paragone con la vergine condannata per stupro, no, e invece vi invito a riflettere. Innanzitutto lo sapete che non manco mai di rispetto alle donne, ma il punto è che io pretendo che un avvocato, per il fatto che sia avvocato, la cosa fondamentale è che deve innanzitutto rispettare i principi dell'ordinamento come operatore del diritto e naturalmente il giudice di cui è controparte, quindi lo voglio vergine da questo punto di vista. Se lui si becca una condanna per corruzione in atti giudiziari perché mette mano al portafoglio e corrompe i giudici, dal mio punto di vista non solo è vergine, non è più vergine, ma è un delitto di stupro rispetto a quello che dovrebbe fare. Cioè, capite, non è che sto dicendo una cosa che è un paradosso, dal mio punto di vista è proprio così quel caso personale e particolare, che voi e io stesso pensi poi di quella sentenza, però intanto quella sentenza c'era. Allora, pubblicità e poi l'avvocato Scuto. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando della storia, chiamiamo così, di Alessandro Maria Colì, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo, sotto la cui presidenza si assume una decisione, cioè la decadenza e la radiazione dall'ordine di Aiello, innovando la prassi diffusa in tutti gli ordini per la quale si attende una sentenza passata in giudicato prima di assumere una decisione tanto pesante nei confronti di un iscritto. Invece, dopo un giudizio di primo grado e 10 anni di carcere, il presidente Calì all'epoca prende la sua decisione, dopodiché viene contestato e perde la presidenza dell'ordine, ma intanto a maggio di quest'anno poi il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri conferma e quindi costituisce pieno precedente la decisione assunta sotto la presidenza di Calì a Palermo. E stiamo parlando, eravamo arrivati al punto di porci però la questione rispetto a chi obietta: sì, ma se siete garantisti davvero e vale la tutela del diritto dell'indagato nel procedimento fino alla sentenza passata in giudicato, come potete pensare, potete addirittura chiedere, potete considerare fondamentale per l'esistenza stessa degli ordini che questi stessi ordini impediscano di lavorare a un indagato che si becca magari in un grado precedente del procedimento una condanna grave? E questa domanda io giro all'avvocato Scuto chiedendogli di equilibrare i due punti di vista, per così dire, cioè quelli dell'ordinamento e quelli della essenza stessa dell'esistenza e del significato degli ordini alla luce delle decisioni che prendono. Che ci dice, avvocato Scuto? Ma direttore, se spostiamo il piano del nostro discorso dall'aspetto sociologico a quello normativo, forse possiamo trovare anche delle indicazioni precise che ci aiutano nella ricerca di questo equilibrio. Stiamo parlando dei rapporti tra il procedimento disciplinare, quindi della giustizia cosiddetta domestica, e il processo penale. Questi rapporti sono regolati da una serie di norme, ma soprattutto direi, per comodità espositiva, ma anche per farmi comprendere meglio senza entrare in un discorso molto tecnico dai nostri radioascoltatori, vi è un articolo del codice di procedura penale, che è l'articolo 653, che appunto regola l'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. In sintesi la questione è questa: vi è un'autonomia ormai dichiarata anche dalle corti che si sono occupate della questione, anche dalla stessa Corte di Cassazione, che nelle sezioni unite civili rappresenta il vertice a cui convergono tutte le giustizie domestiche dei vari ordini italiani. E questo principio di autonomia del giudizio disciplinare rispetto al giudizio penale. Contro questa affermazione però si pone un altro principio, che è quello dell'efficacia del giudicato. Il giudicato quindi ha un'efficacia rispetto al fatto che esso contiene nell'ambito del giudizio disciplinare. E vi è una differenza però tra due tipi di giudicato: il giudicato di assoluzione e il giudicato di condanna. Il giudicato di assoluzione, soprattutto dal 2001, con la legge 97 che è intervenuta soprattutto con riguardo al pubblico impiego, Il giudicato di assoluzione, dicevo, è un giudicato che se contiene una identità del fatto rispetto a quello che si discute nel processo disciplinare totale, che quindi copre sia l'elemento materiale sia l'elemento psicologico, quindi la volontà, il tipo di volontà che ha animato la persona incolpata, e in questo caso l'ordine è assolutamente vincolato da quel giudicato, e quindi in caso di assoluzione non può combinare una sanzione disciplinare. Diverso, leggermente diverso, è quello che discende, è ciò che discende dal giudicato penale di condanna, perché qui comunque residua per l'ordine, per la giustizia domestica, un'autonomia di giudizio sul fatto che può anche portare ad una indicazione diversa e quindi anche a un contrasto di decisioni rispetto alla quella che, a cui si è pervenuta del processo penale. Il problema nasce ovviamente, e non può essere mai questo dimenticato, dalla natura della norma deontologica, perché non dobbiamo dimenticare che il procedimento disciplinare tende all'affermazione di quelli che sono, che è lo scopo della norma deontologica. Quest'ultima attiene, come dire, all'aspetto interno dei comportamenti, una norma di carattere etico che impone dei precetti agli iscritti e tende ad assicurare che i requisiti di qualità dell'attività che ciascuno degli iscritti agli ordini è tenuto a svolgere siano raggiunti. Quindi questo è il discorso nelle sue linee generali, e questo mi porta a dire che quello che il presidente, l'ingegner Calì, ha fatto è, da un punto di vista procedurale nella vicenda Aiello, a me sembra assolutamente corretto, tant'è che credo che la recente decisione del Consiglio nazionale questo in qualche modo lo possa attestare. Ciò però non significa che, qualora la vicenda Aiello si concludesse in maniera positiva per Aiello, perché questo non possiamo escluderlo, allora si pone un problema di rimediare a questo tipo di conflitto di giudicati, perché avremmo una sentenza nel processo penale di assoluzione e una sentenza di condanna della giurisprudenza domestica. Questo è il vero problema, che ha fatto sì che ormai, nonostante, proprio grazie all'autonomia tra i due procedimenti, non sia più automatica la sospensione del procedimento disciplinare pendente quello penale, cosa che invece fino alla vigenza del codice Rocco lo era, perché vi era una pregiudiziale penale, ma insomma il discorso diventerebbe, certo, un po' più complicato. No, ma lei ha spiegato molto bene. Però, no, concludo, il vero problema è, quindi gli ordini cosa fanno? Normalmente sospendono, però. Perché sospendono? Perché il problema che poi si pone è quello di trovare soluzioni per poi ortopedizzare questo, certo, tipo di contrasti. Chiarissimo. Naturalmente, ripeto, esiste un merito particolare, perché io sono d'accordo, anche a Aiello, aspettiamo la Cassazione, per così dire, però i 10 anni e i 16 anni in appello dipende dal rilievo anche di ciò che c'è negli atti giudiziari, perché come in quel caso ci sono pizzini su pizzini di Provenzano diretti, è abbastanza inequivocabile. Detto questo, ovviamente, pieno rispetto ai diritti di Aiello, vedremo in Cassazione, però insomma io non risolvo se non a favore di una richiesta agli ordini di un supplemento di tutela deontologica rispetto al livello generale, assoluto, inderogabile, della tutela dei diritti dell'indagato fino alla sentenza passata in giudicato. Sentiamo alcuni di voi come la pensano, ci sono delle telefonate, ci ha chiamato Laura da Milano. Io mi scuso anche con Laura, perché ricevo un mucchio di messaggi su questa cosa della Vergine e lo stupro. Guardate, non era né una condanna su che cosa fate o non fate sessualmente, ripeto, è una contraddizione ad iecto, si chiama in logica, no? Cioè, se io ho una madre badessa che si pretende per il ruolo che svolge che abbia pronunciato per sua libera volontà, non perché Giannino ce l'ha con chi fa sesso, ma dei voti di castità, e poi viene condannata per stupro, è una cosa di fronte alla quale il minimo che chiedo all'ordine è di metterla alla porta. Avete capito il problema? Non è che sto veicolando e bollando i costumi sessuali di chi sta in ascolto. Oh santo Dio, ho più messaggi su questo che sul merito della trasmissione. Allora, l'esperienza di Laura da Milano in ordine a questo tema degli ordini qual è? Buongiorno, allora io non c'entro niente con la badessa, nel senso che io sono vicepresidente di un ordine e chiamavo per relativamente proprio al processo, quindi non ho sentito neanche questa cosa di cui lei sta parlando, perché mi sono messa, ho sentito la radio dopo. Ma allora, quello che voglio dire io è che nel nostro piccolo, allora noi siamo veterinari, quindi il nostro è un ordine tutto sommato relativamente alla gravità degli atti commessi dai nostri iscritti abbastanza minore rispetto a tutte queste situazioni di cui si parla stamattina, però i problemi nostri che abbiamo con a volte anche con la magistratura proprio è anche quello opposto, cioè noi è possibile che un nostro iscritto venga condannato dalla magistratura, ma la magistratura non è obbligata a comunicarcelo, quindi noi possiamo anche non saperlo. Quindi se noi non abbiamo poi un esposto diretto... Quindi voi lo sapete dai giornali. Lo sappiamo dai giornali, quindi ogni tanto capita delle situazioni in cui si scopre dal giornale che il collega è stato condannato per un motivo o per un altro, ma noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Quindi se non sono esposti, che ci vengono comunque anche fatti per esempio dai proprietari di animali o in situazioni più gravi di colleghi che si occupano non tanto di animali da compagnia ma di questioni di sanità pubblica, che noi possiamo anche non saperlo, quindi uno dei problemi è anche questo qua. Cioè noi abbiamo per esempio scoperto da un'associazione animalista che una nostra iscritta era stata condannata per maltrattamento animale, ma noi non era stato detto assolutamente nulla. Ma in quel caso, cioè, che insomma, voglio dire, un'iscritta condannata per maltrattamento animale, anche qui abbastanza singolare, in quel caso come avete poi proceduto? Avete preso atto della cosa con la siccome non era afflitta da provvedimenti, immagino, di custodia cautelare, non è che l'avete no, sospeso? Certo. Cosa avete fatto? Cioè? Allora, in questa situazione specifica, mi dispiace, ma la condanna non era corretta, nel senso, la collega, abbiamo guardato attentamente tutte le carte, ma non era stata una condanna giusta, nel senso che quindi mi pare giusto, giustamente vi siete fatti una vostra idea entrando nel merito rispetto alle imputazioni che avevano portato a quella condanna, avete pensato no, non è giusta, quindi non prendiamo provvedimenti. Esatto, perché effettivamente non c'era stato, cioè era una condizione medica, non era un maltrattamento, e alla collega non era stato concesso, c'era stato tutto un procedimento molto strano, non era stato neanche concesso di avere una praticamente un certificato di una perizia della parte opposta. No, ho capito. Un veterinario, cioè c'era una persona che aveva visto il cane e aveva detto il cane è maltrattato. Grazie a Laura, perché ci fa capire primo che c'è un problema di coordinamento e di informazione degli ordini, secondo loro comunque sono entrati nel merito, poi sono presi la responsabilità di dire al nostro giudizio qui è addirittura il giudice che sbaglia, e quindi noi come custodi della deontologia del nostro ordine assolutamente non prendiamo provvedimenti, ma sono entrati nel merito. Allora, poi ci chiama Antonio da Palermo. Antonio, che pensa della vicenda di cui stiamo parlando, che riguarda poi la sua città? Sì, buongiorno, io sono Antonio Barcellona, io sono stato presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo dopo la presidenza dell'ingegnere Calì. Ah, quindi interviene per fatto personale, quindi magari ha qualcosa anche da aggiungere. No, volevo aggiungere qualcosa. No, perché ero segretario. No, certamente, dica. Io ero segretario del Consiglio dell'Ordine al momento in cui si verificano quelle vicende che racconta l'ingegnere Calì, e volevo integrare qualche cosa, nel senso che volevo aggiungere che una cosa importante, la delibera con la quale viene radiato l'ingegnere Aiello dal Consiglio dell'Ordine viene votata all'unanimità da tutti i consiglieri, da tutti e 15 i consiglieri dell'ordine. Giusto sottolinearlo questo, perché non l'avevamo detto, grazie. È giusto sottolinearlo, ed è questo il motivo, a mio parere, per cui poi il Consiglio nazionale, oltre alle motivazioni della delibera, per il quale poi il Consiglio nazionale non può fare altro che... È perché l'unanimità è un titolo forte, ha ragione. Questo nonché tutte le motivazioni della delibera. Poi l'ingegnere Calì parla della sfiducia a lui che ha 8 consiglieri dei 15 muovono successivamente. Ebbene, questo è assolutamente slegato dalla vicenda Aiello. i motivi per cui lui viene sfiduciato da questi 8 consiglieri sono assolutamente diversi da quelli che cita lui, cioè non si tratta assolutamente di motivi banali o legati al protagonismo, ma sono invece inerenti. Sono dei motivi ben precisi scritti in nella mozione. Ce li faccia capire, ma in sintesi, cioè quali sono? Malversazione. Una gestione non corretta della carica di presidente dell'ordine. Lui viene sfiduciato e anche per questi motivi corretti il Consiglio nazionale non può fare altro che confermare, come diceva lo stesso ingegnere Calì, che confermare la possibilità di sfiducia, nonché poi. Diciamo in qualche maniera costringe Calì a dimettersi, perché Calì si dimette, ma in realtà non è che si dimette, è il Consiglio nazionale che dice all'ingegnere Calì: non puoi restare legato alla poltrona, non puoi più fare il presidente del Consiglio dell'Ordine, ma devi andare via. Vabbè, io allora facciamo così, Barcelloni, io adesso devo dare un minuto di informazione sulla circolazione stradale, poi sentiamo subito dopo Calì con la ribatte, la prego di rimanere in linea, perché mi rendo conto che poi i punti di vista personali, quando si è protagonisti di questa vicenda, non voglio negare i propri diritti a nessuno. Ora le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio e l'ingegnere Calì, chiedo se per caso l'intervento di Antonio Barcellona, che era il segretario del Consiglio che assume il provvedimento all'unanimità di espulsione di Aiello, e però dice Calì però la perde, diciamo così, la viene sfiduciato non per questioni attinenti a questo, immagino che non fossero quelle le giustificazioni formalmente addotte, però le chiedo solo, sia pur senza deviare dal merito della vicenda di oggi, che l'espulsione, il precedente dell'espulsione, se naturalmente ha qualcosa da aggiungere, obiettivo a quello che ha detto. No, certo. Io innanzitutto volevo che il segretario, l'ingegnere Barcellona, precisasse se l'accusa è di malversazione, ho sentito bene. No, però ero io a fare un esempio per capire, per arrivare al merito, no, perché lui diceva altre ragioni, ma facciamo capire quali. Appunto, io non ho capito quali sono queste ragioni. In ogni caso, credo che gli ascoltatori siano poco interessati a questa, diciamo, piccola bega. Io credo che se vogliono approfondire poi potranno anche leggere il mio libro che si chiama Disordini. Ma editore? Io credo che Editore Navarro editore di Palermo, ma credo che il punto della trasmissione non è questo, piuttosto se garantismo vuol dire impunità. Io credo che nel caso Aiello noi abbiamo dimostrato che né bis in idem, cioè non abbiamo voluto rifare il processo a cui sono chiamati i giudici, chiaramente. Noi siamo occupati di un'altra sfera, che è quella deontologica, quella per cui nascono gli ordini. Cioè gli ordini nascono per dire se un iscritto è condannato ad una pena superiore ai 3 anni deve essere cancellato. Per tutto quello che viene sotto c'è l'ordine di vigilare. Ho fatto il caso dell'esempio del pizzo, ma ne facciamo un altro. Se due medici prima di entrare in sala operatoria o in sala operatoria litigano, questo magari non è un reato penale, però l'ordine deve intervenire. Diciamo no? Di questi tempi ha iniziato ad avere una certa frequenza questo fatto. Quindi dico, per tornare al nostro caso, di casi di collusioni con la mafia, con l'andrangheta, è chiaro che nel meccanismo enorme del riciclaggio del denaro i professionisti hanno, come ha detto lei bene, un ruolo determinante, come ha detto bene Nino Amadore nel suo libro, un dodo determinante. E allora si tratta non di rifare il processo penale, si tratta di aprirlo questo procedimento, come hanno fatto i colleghi veterinari in quel caso della vicepresidente dei veterinari, è entrare nel merito e dire vediamo, leggiamo queste carte, vediamo. Però Calì, io ho un mucchio di messaggi di ingegneri e soprattutto di avvocati, perché di fronte alla cosa di Previti è successo l'ira di Dio, gli avvocati in ascolto, che dicono ma noi negli ordini mica ci abbiamo i poteri di indagine, la possibilità di acquisire elementi, e quindi non bisogna fare indagini, bisogna solo leggersi le carte. Facciamo un altro esempio: c'è un commercialista che viene intercettato, e sono atti pubblici, intercettato mentre svela ad un latitante che sta per arrivare al mandato di cattura, e allora dice guarda sta arrivando 150 mandati di cattura, scappa. Dico, basta questo per aprire un procedimento disciplinare e chiamare il collega e dirgli scusa, ma tu perché hai fatto questa telefonata? Oppure dobbiamo aspettare 12 anni di giudizio penale? Non lo so. All'avvocato Scuto chiedo, non è un po' singolare il fatto, testé richiamato, testé, inizio a parlare anch'io come un mattinale di polizia, va bene, basta, era il vecchio riflesso condizionato dei miei studi, ma quando mi rivolgo a un avvocato faccio così. Questo è brutto per noi avvocati. Lo so, sono io che mi autoverbero, lei non ha alcuna colpa, ma dico, non è un po' singolare il principio, ci ricordava adesso che lì per sotto i 3 anni l'ordine ci deve pensare lui, e qui stiamo parlando invece di casi in cui naturalmente arrivano condanne di 10, di 16 anni e l'ordine di fronte a quelle dice, vabbè, alzo le mani perché io poi come faccio a entrare nel merito davvero, è meglio aspettare che la giustizia faccia il suo corso. Beh, non c'è qualche cosa in come sono concepiti gli ordini da ripensare su questo, secondo me? Questo sicuramente il problema, diciamo, la problematica che investe gli ordini, che è una problematica molto delicata, sicuramente dovrebbe essere nell'agenda della società e della politica, ma insomma non accade in maniera seria, purtroppo. Poi considera che gli ordini, ormai, io penso a quello a cui appartengo, devono combattere con un molosso che è dato dal numero degli iscritti, e questo ovviamente appesantisce enormemente l'attività, anche e soprattutto l'attività disciplinare. Però vorrei fare un attimo un po', passatemi la battuta, un po' di ordine. La legge stabilisca un tetto di misura di pena dopo il quale, a partire dal quale l'ordine ha il potere di cancellare o di radiare il proprio iscritto, è un fatto. Però questo fatto comporta delle conseguenze, o comunque o soprattutto comporta delle attenzioni. Quella pena deve essere una pena definitiva. E se poi il sistema giustizia penale è un sistema che a sua volta è malato, che è lungo, è lento, e questo però non può significare che l'ordine prenda, come dire, una funzione di supplenza e acceleri. Lo può fare, ripeto, lo ha fatto l'ordine degli ingegneri di Palermo nel caso che stiamo esaminando, da cui siamo partiti. No, ma l'avvocato, scusa, infatti io per questo l'ho voluto, mi richiama un pochino a dire stai attento, perché c'è chi lo fa e in quel caso si assume la responsabilità. Quello che è pericoloso è indicare questa come linea generale per gli ordini. Rispetto all'equilibrio dell'avvocato Scuto, che ci richiama al garantismo, all'ordinamento, io mi ripiglio la mia responsabilità e personalmente dico ai miei ascoltatori di Radio 24, non sono miei, io sono pro tempore, polvere solo e polvere tornerò, che invece considero l'ingegnere Alessandro Maria Calì un esempio da seguire, e vorrei vivere in un paese in cui tanti presidenti di ordine di fronte a casi come quelli di Aiello dicessero: io mi prendo la responsabilità di chiedere ai componenti del consiglio direttivo, lo vogliamo radiare o non lo vogliamo radiare, vogliamo mettere la nostra faccia di fronte al fatto che c'è una virtù che si costruisce dal basso, oppure ce la dobbiamo prendere solo con la politica dall'alto. Questa è la differenza che, come sempre, ogni giorno ci troviamo di fronte a noi. Io sono perché i paesi cambino dal basso, prendendo a calci nel sedere i politici, chiedendo meno tasse e anche prendendosi la responsabilità di dire che si è avvocati, ingegneri, architetti, perché si ha un onore, una professionalità da tutelare e soprattutto una faccia, perché la firma sotto un progetto, la firma per una causa, la firma eccetera, sono la faccia che assevera agli occhi degli altri, che dice fede pubblica. Altrimenti gli ordini, non solo per questo, ma innanzitutto per questo, aboliamoli. Fine della trasmissione di oggi. Grazie Alessandro Maria Calì, grazie a Nino Amadore, grazie all'avvocato Salvatore Scuto, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione e all'assistente prezioso con cui, grazie al quale vado in onda, Franco Piantanida, linea generale radio. Appuntamento a domani.